Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma radiofonico che va in diretta qui dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine dalle ore 20 alle 21.30 e andiamo subito con quella che è la sigla appunto di questo programma, che è Retribution dei Behind Enemy Lines. Questo brano era Retribution dei Behind Enemy Lines, è la sigla iniziale di questo programma che è Zardins Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane fino alle 21.30. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band punk hardcore tedesca. È un loro album del 2015, quello che ascolteremo un brano 2, comunque è il primo loro album, e ascoltiamo questi Nakam. We'll be right back. un saluto anche da parte mia a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics. Continuiamo questa sera con le riflessioni così e le prese di posizioni contro il Green Pass e l'obbligo vaccinale, e anche con l'analisi rispetto alla situazione di come sta andando la società e il mondo capitalista. E così volevo proporre la lettura di un'esperienza di due donne in Sardegna. E lo scritto è particolare, è molto personale, appunto, e narra di una vicenda specifica e personale, però ha questa grande tensione al suo interno, che rimarca che appunto il personale politico, quindi è molto interessante, insomma, è significativo da molti punti di vista, politicamente veramente spacca, secondo me, e ci si trova dentro, insomma, un po' tutta la sensibilità e la cultura politica anarchica e anche femminista. Questo scritto si intitola Cantare per chi se n'è andata, resistere con chi è rimasta. Vorrei, con le mie parole, cantare per le ossa di mia sorella, farla vivere ancora. E con lei, scusate, ripeto perché ho avuto un problema con il computer. Vorrei, con le mie parole, cantare per le ossa di mia sorella e farla vivere ancora, e con lei far rivivere tutte le persone che sono state letteralmente spazzate via da questo nuovo mondo votato alla salute meccanica e alla sopravvivenza. Non che prima non si morisse e male, non che prima non esistessero le dannate, ma il mondo che va delineandosi da oltre un anno a questa parte ridisegna per me il confine fra la vita come feticcio, come mero svolgimento di funzioni biologiche, e la vita piena, libera e radicata nella complessità, o quantomeno la tensione verso questa. In questa morsa mia sorella è rimasta incastrata e ha scelto per sé una via verso la libertà. Una scelta che rispetto, per quanto il mio cuore sia finito in pezzi che non trovo il modo di ricomporre. Sono sicura che tante fra noi abbiano perso una persona amata in situazioni più o meno direttamente collegate con l'emergenza sanitaria da Covid-19, o meglio, con la sua gestione. Questa sofferenza non può, per me, essere considerata solamente un fatto privato. Fa male ripercorrere ciò che ci è successo e proverò a farlo senza scadere nella pornografia del dolore, che aborro, e provando a raggiungere l'obiettivo di questo scritto, rimarcare che il personale è politico. Andare dal particolare al generale in modo ricorsivo. Noi siamo nate in Sardegna. Entrambe l'abbiamo lasciata per ragioni diverse, ma condividendo con tante altre sarde quell'ingombrante contraddizione per cui a vivere nell'isola ci si sente spesso in gabbia, ma a starci lontane ci si sente deprivate, talvolta da non poter respirare. Ne abbiamo parlato spesso nel corso dell'anno passato. Improvvisamente non era più possibile tornare per la mancanza di soldi per il viaggio o per via dei divieti, per il timore di portare con sé questo maledetto virus e mettere in pericolo le persone a noi care, non più giovani e piene di acciacchi. Improvvisamente era tutto troppo lontano, irraggiungibile, le distanze accresciute dai dubbi che non riuscivamo a sciogliere, appesantite dall'isolamento indotto che entrambe, in tempi e modi diversi, abbiamo affrontato eppure messo all'angolo per necessità. Lo scorso settembre, infine, siamo riuscite a tornare e vivranno per sempre nei miei occhi gli ultimi momenti che abbiamo trascorso insieme, ridendo e discutendo, guardandoci finalmente negli occhi e parlando a viva voce, senza la mediazione di qualche supporto tecnologico, toccandoci, abbracciandoci. Poco prima del Natale 2020, mia sorella ha deciso di licenziarsi da un lavoro pesante e di cui non reggeva più i ritmi. Faceva la OSS in una casa di riposo, il cui personale era sottodimensionato rispetto alla molle di mansioni da svolgere e dove era assente un reale monitoraggio dei contagi. Si è licenziata anche per poter tornare in Sardegna e stare un po' con nostra madre. Ha preso le precauzioni che le sembravano sensate: test prepartenza negativo, mascherina a distanziamento. A pochi giorni dall'arrivo, un ex collega le ha fatto sapere che alla casa di riposo si stavano moltiplicando le persone positive al Covid-19, consigliandole di fare un nuovo test. Così lei ha fatto, rendendosi conto di essere questa volta positiva. Personalmente ritengo molto probabile che abbia contratto il virus sul luogo di lavoro, date le scarse attenzioni della direzione nei confronti di possibili contagi. Uno spirito dettato dal menefreghismo verso dipendenti e ospiti, vista anche la natura della struttura. Nell'attesa del risultato aveva già cominciato a tenere tutte le precauzioni possibili. Quando ha avuto il responso si è isolata in quella che un tempo era la nostra cameretta. Questo isolamento è durato appena 5 giorni. Sconvolta dal senso di colpa per la possibilità di aver contagiato nostra madre ed altre persone, non riusciva a darsi pace. In tante abbiamo parlato con lei in quei giorni, per ore. Si sentiva delle morti sulla coscienza, mi ha detto in un frangente. Il 3 di gennaio, verso l'ora di pranzo, non ce l'ha fatta più e si è tolta la vita. Mentre lo scrivo, mi sembra ancora surreale, anche se già dei mesi sono trascorsi, ma è andata esattamente così. Mi sono precipitata in Sardegna, anche io, e quel mese là è stato banalmente un incubo. Non trovo davvero altre parole. Al dolore della perdita si sono sovrapposte le linee guida della tanatologia ai tempi del Covid. Gli operatori bardati da capo a piedi, il suo corpo sigillato e intoccabile, le procedure da rispettare per il funerale in zona rossa. A quel funerale, per gran parte del tempo, mi sono sentita totalmente sola. Nessun contatto fisico, solo le amiche, le sorelle e i fratelli di sempre hanno infranto ogni codice per sostenermi con le loro braccia e aiutarmi ad andare per il cimitero e tornare indietro. Ho potuto sentire sulla mia pelle quanto il dolore sia più forte nel distacco, nell'assenza di mani, di carezze, e quanto possa essere alleviato da un abbraccio che ti solleva e ti porta quando le tue gambe non ce la fanno più. Io non l'ho saputo realmente fino a quel giorno. Per contro, ho visto la paura negli occhi di chi il contatto voleva evitarlo. Non biasimo queste persone per un rischio che non hanno voluto correre, ma mi ha dato certamente da riflettere. Io stessa non ho toccato mia madre per quasi un mese, ovvero per tutto il tempo che è risultata infine positiva. Solo la mattina in cui sono venuti a prendersi mia sorella non ce l'ho fatta più e le ho preso le mani, dicendole di stringere forte le mie. Per il resto sono andata a trovarla regolarmente, stando fuori di casa, a distanza, entrambe col volto coperto. Qualcosa dentro di me diceva: resisti, mantieniti sana, secondo i canoni di questo nuovo mondo. Così potrai renderti utile, potrai andare a prendere questo e quello, sbrigare tutte le faccende di cui c'è bisogno. L'ho fatto anche per rispetto di chi mi ospitava in quel frangente, cercando di essere responsabile. A posteriori posso dire di aver fatto ciò che serviva per ridurre il rischio, ma c'è poco da fare. In questi concetti l'umanità ci affoga. E per umanità intendo la capacità di empatia, la prossimità che rincuora, che rinfranca, che schiaccia la solitudine, la prossimità che ha effetti straordinariamente benefici su tutti i livelli della vita, biologico, spirituale, emotivo, e che questa epidemia ha messo al banco degli imputati. Credo che nell'ultimo anno in tante ci siamo trovate in situazioni simili. Privilegiare la prossimità o la sicurezza? Quali rischi correre, in nome di che cosa e come valutare il rischio, come renderlo verosimile in un vortice di informazioni che hanno spesso creato confusione e di conseguenza una visione non lineare, non libera? Di tutto ciò ho discusso con le persone che mi sono affini, scegliendo di volta in volta quanto rischiare per non perderci completamente, per non ridurre le nostre vite alla mera sopravvivenza. Ma in questa perdita improvvisa, in questo repentino cambio di latitudine, in questo essere catapultata in una situazione fino ad allora neanche immaginata e lontano dagli spiriti affini, non c'è stato quasi il tempo per riflettere. E quando non c'è tempo per riflettere e la mente e il cuore sono oscurati, semplicemente ci si abbandona alla corrente. Questo almeno è ciò che è capitato a me. Vorrei avere la possibilità di parlare di questi dubbi con chi si è trovata a vivere situazioni simili, parlarne fuori dai denti, senza appiattire il discorso sulla scelta fra libertà e sicurezza. Parlarne con franchezza per capire come altri hanno vissuto questa dicotomia e se hanno avuto abbastanza lucidità per andarvi oltre. come hanno affrontato queste situazioni con persone con cui non discutono e non si organizzano abitualmente. Vorrei farlo perché anarchia è anche questo. Non solo smontare le logiche che informano l'azione di Stato, ma anche trovare modi per noi sensati, etici, per far fronte ai problemi e alle questioni che quotidianamente ci si pongono. E fra queste vi è certamente il come affrontare una situazione epidemica senza scadere nell'autoritarismo e nell'atomizzazione tout court. Voglio essere chiara, per me è straordinariamente vero che l'unica sicurezza è la libertà. Ma come allargare questa consapevolezza? Come comunicarla? Con quali gesti? Con quali parole? Senza che sembri un motto fine a se stesso? Come posso, ad esempio, far capire a chi ho intorno che per me è più irresponsabile lasciare una persona sola, pur nel rispetto di tutte le prescrizioni relative al confinamento, che non stare con lei e farle forza, se sento che ne ha un'impellente necessità? Questi avvenimenti, l'isolamento sanitario di persone care, la loro perdita in un contesto in cui la ritualità dell'ultimo saluto viene totalmente sconvolta, sono lungi dall'essere un ricordo lontano. Dovremmo farci conti, ai noi, sempre più spesso. E vorrei parlare apertamente del terrorismo strillante a cui siamo sottoposte da oltre un anno a questa parte, perché io lo so, mia sorella è stata uccisa anche dall'iperindividualizzazione della responsabilità, dai nonsense autoritari e dalle retoriche dell'untore di mese in mese differenti, in una logica che vorrebbe la nostra colpa pari a quella di chi dirige le deforestazioni dell'Amazzonia, gli scavi nelle viscere della terra, implementa torture negli allevamenti intensivi, gestisce i sistemi sanitari come vere e proprie società per azioni. Questa spietata attribuzione di colpa, sentimento terribile e cristiano, ha distrutto rapporti di solidarietà e incrinato le volontà già stremate da altre pesanti emozioni, reso la delazione una pratica accettabile, blindato l'isolamento. Ho cominciato a percepire un filo diretto fra i suicidi di chi è isolata in carcere e i suicidi di chi è isolata per via di queste nuove, aberranti condizioni di vita. Forse è un azzardo, non vorrei fare paragoni impropri, ma io sento questa continuità. Allo stesso modo vedo nell'isolamento e nel pesante stigma a cui fino ad ora sono state sottoposte le persone psichiatrizzate il germe della forma mentis con cui ora potrebbero essere interpretate le volontà di chi vuole rifiutare una serie di trattamenti sanitari su tutti i vari sieri sperimentali ora in commercio e già obbligatori per una parte di popolazione, almeno in Italia. Il ricatto psichiatrico si basa sull'annullamento dell'autonomia individuale e sul fatto che c'è sempre qualcuno che sa meglio di te cosa è bene che tu faccia. Questo sapere meglio si fonda in parte sulle competenze. E fin qui, se si potesse discutere alla pari, mantenendo salda la propria autodeterminazione, sarebbe già qualcosa. E in parte questo sapere meglio si fonda sul potere di imporre quelle competenze e le visioni che ne derivano come unica via percorribile, grazie all'azione congiunta di apparato legislativo, giuridico e poliziesco accanto a quello sanitario. Questo è solo uno degli elementi che rendono la scienza un campo di battaglia, l'ennesimo, e ben lungi da quell'aura di neutralità che va rafforzandosi sempre più nell'immaginario comune. Quello che sto dicendo è in parte banale, nella misura in cui credo sia stato fino ad ora sotto gli occhi, se non di tutte, di tante. Ma adesso che questa prospettiva deleteria comincia ad allargarsi, che con l'etichetta omogeneizzante di Novax si comincia a patologizzare, streghizzare una consistente fetta di individui che semplicemente nutrono dei dubbi, ben fondati, e vorrebbero decidere sul proprio corpo e sulla propria vita, che facciamo? Mia sorella era una persona generosa e piena di coraggio, era una creatura gentile e dalla profondissima sensibilità. Era consapevole della sua condizione di sfruttata e odiava le ingiustizie, specie quelle perpetrate contro gli animali non umani, da sempre gli ultimi fra gli ultimi. Scrivo anche perché vorrei che di lei restasse qualcosa di forte, resistente al tempo e alla polvere. Vorrei che tutti sapessero quanto fosse unica e sorprendente. Quando osservo la boria di certi esponenti di Confindustria, di certi politicanti e militari, mi viene quasi il vomito a pensare che questa gente si senta la coscienza leggera e che mia sorella abbia trovato insopportabile un senso di colpa indotto e calato dall'alto e che a causa di questo abbia deciso di andarsene. Quante come lei hanno lasciato questo mondo nel silenzio? Come muoverci per provare a far sì che resistano e restino con noi? Questo testo è stato scritto tra l'aprile e l'agosto 2021. E intanto stiamo ascoltando questa band della zona di Cuneo, loro sono i Fukuoka o Fukuoka, non so, vabbè, comunque Fukuoka, e questo è il loro album d'esordio, Succhi di vita quotidiana. Comunque, spaccati di vita quotidiana, non come ho detto io prima, succhi di vita, perché ovviamente non ho gli occhiali e quindi non riesco a leggere. Comunque, spaccati di vita quotidiana, loro sono i Fukuoka della zona di Cuneo. I confini sono confini della mente, sempre da patenti, assepino gli infettatori denti, confini inesistenti, linee, limiti, ci dividono in frammenti, differenti, non così diversi e troppo spesso indifferenti. Noi, della nostra città, noi, della media società, noi, che un lavoro sia, noi, che abbiamo sempre qualcosa che non cadere, e a volte si possono stare a vedere, stare a vedere. Sì, e quando sono quasi le 9:15 qui a Zardins Magnetics, onde furlane, proseguiamo con le letture. E, allora, adesso vi propongo la lettura di questo contributo di un compagno disertore di questo mondo da Cremona. È sempre uno scritto di agosto 2021. Potrei, ma non voglio. Potrei convincermi che tutte le centrali nucleari siano affidabili, ma non voglio. Ho ancora in mente Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, Fukushima. Quando la Terra si contamina per sempre, i soliti personaggi al potere ci dicono che non c'è più niente da fare. Potrei considerare le guerre come qualcosa di necessario per battere nemici che sembrano invincibili, ma non voglio. Tutte le morti provocate dai conflitti fra gli stati hanno solo potenziato il loro dominio sugli individui attraverso genocidi, massacri e carestie. Potrei rimuginare sulla libertà di scelta, ma non voglio. Nel mondo del progresso per i ricchi e del regresso per i poveri, quella che viene chiamata libertà di scegliere, mi sembra più corretto chiamarla libertà di consumare quanto più è possibile. Potrei dire che abbiamo tutte le stesse possibilità, ma non voglio. In questo mondo di stupri, discriminazioni sessuali, binarismi di genere imposti, controlli sul possesso dei documenti necessari, nelle cui strade la polizia ti assassina se sei indesiderabile, le cui acque diventano specchi di una morte silenziata, l'unica possibilità che ci rimane è quella di essere tutti stranieri del mondo, sapendo di agire in territorio nemico. Potrei voltarmi dall'altra parte quando la terra viene devastata, ma non voglio. Quando affondano petroliere in un mare già contaminato da rifiuti radioattivi, diventa chiaro come l'irreparabile della miseria esistenziale sia la scelta di chi comanda e di chi serve questo mondo. Potrei meditare sul fatto che l'ingegneria genetica possa migliorare ciò che chiamiamo esistenza, ma non voglio. Perché produce umani conformi al modello fissato e quest'ultimo non mi sembra che possa essere accomunato all'incanto del vivere. Potrei supporre che la medicina che combacia con ansiolitici, tranquillanti e vaccini possa azzerare alcune patologie, ma non voglio. Le camicie di forza della medicalizzazione sono da sempre una risposta dell'ordine per fermare e debellare il caos delle passioni. Potrei fantasticare che alla fine il cibo artificiale porrà fine alla fame nel mondo, ma non voglio. OGM e spazzatura analoga hanno l'unico fine di incrementare la produzione e i privilegi dei soliti noti e dei nuovi cannibali. E chi invoca sviluppo economico sta evocando sempre più schiavitù per la maggior parte degli individui. Potrei assentire sulla necessità di enormi livelli di energia e infrastrutture industriali per vivere, ma non voglio. Tutti questi cavi, fili, scatole magiche servono la mega macchina del dominio. Non una vita degna di essere esplorata in tutte le sue possibilità, anche quelle che appaiono impossibili. Potrei scervellarmi sull'opinione che la tecnologia ci renda la vita meno greve, ma non voglio. Non si può non considerare l'industria tecnologica come un'enorme industria poliziesca. E di solito la polizia difende chi comanda per paura che quelli del mondo di sotto si possano ribellare e sabotare la propria esistenza in quanto sfruttati. Potrei non badare più alle infinite telecamere che spiano la vita di chiunque, poste dappertutto, ma non voglio. Tra sicurezza e libertà non ho dubbi. Al deserto dei Tartari preferisco un'avventura in cui lo stupore mi accompagni per sempre. Potrei pensare che forse qualche forma di Stato sia neutrale, ma non voglio. La voglia di libertà è più forte di qualunque totalitarismo, anche democratico. Le democrazie hanno i loro gulag e i loro campi di concentramento. Potrei fidarmi di scienziati, politici, tecnici, amministratori, urbanisti, controllori, ricercatori, preti e professori, ma non voglio. Dove la libertà diventa costrizione dettata da un'autorizzazione o da una siringa in un braccio, come posso avere fiducia? Come posso accettare ordini e decreti emanati da chi il danno lo ha creato, affermando che la catastrofe sia una trovata cospiratrice? Potrei speculare sulla fiducia in questo mondo, ma non voglio. Soprattutto adesso, che per l'ennesima volta ho scelto di non stare sull'attenti, decidendo che sul mio corpo decido io. Mi hanno anche tolto la possibilità di sopravvivere, sospendendomi dalla prostituzione pudicamente chiamata lavoro, dove in ambito sociosanitario per prostituirsi serve il vaccino per lor signori. E mi sembra che a cascata questo ennesimo obbligo sarà imposto a tutti quelli che avranno a che fare con lo sfamarsi. Potrei persuadermi che la servitù sia tutt'al più un ricatto e non una scelta accomodante, ma non voglio. Ci intromettiamo nella vita degli altri, eppure esistono luoghi inesprimibili in cui la disperazione e il dolore, scaturiti dalla sofferenza, dell'incapacità della propria prospettiva sediziosa, si possono rovesciare nella determinazione di essere se stesse, senza indugi, fondando su pensiero e azioni la bellezza della rivolta. Potrei lasciarmi sopraffare dai mille compromessi che impattano sulla mia vita, ma non voglio. Odio infinitamente perché continuo ad amare senza riserve. Potrei arrendermi e dire: hanno vinto, ma non voglio. Preferisco la fantasia etica dei miei desideri. La realtà che ci sfrutta non va sacrificata in nome di niente. Essa ci lancia una sfida. Sotto la continua minaccia di un ricatto, il rischio non risiede nel vincerla o nell'essere vinti da essa, ma nel sacrilegio di non darla vinta a nessuno. Se certe gabbie non hanno sbarre, ci sono muri invalicabili che però si può pensare di distruggere, agendo di conseguenza, per non separare più ciò che desideriamo da ciò che non vogliamo. Nel mondo del virus è la libertà che dovrebbe essere contagiosa, non la sottomissione. Un disertore di questo mondo, Cremona, inizio agosto 2021. Sì, e concludiamo allora questa lunga parentesi, spero interessante anche per chi ascolta, appunto contro il Green Pass e contro l'obbligo vaccinale e non solo, insomma, in senso anche più allargato, con la lettura di un volantino che abbiamo distribuito come Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione in una manifestazione contro il Green Pass e l'obbligo vaccinale che si è tenuta a Trieste il 31 agosto. E no al Green Pass, no all'obbligo vaccinale. Come incipit, una frase di Macron: la vaccinazione non è subito obbligatoria per tutti, ci apprestiamo ad estendere al massimo il pass sanitario per spingere la maggior parte di voi ad andare a vaccinarsi. Il Green Pass e l'obbligo vaccinale per intere categorie di lavoratori e per gli studenti universitari non sono misure sanitarie, si tratta di ricatti volti a estorcere il consenso all'inoculazione di vaccini prodotti dell'ingegneria genetica, la cui sperimentazione avviene qui ed ora direttamente nei corpi delle persone. Dei vaccini non si conoscono gli effetti nel breve e nel lungo periodo, ma sono chiari da un lato il loro fallimento nel fermare la propagazione del virus e dall'altro la loro funzione di apripista rispetto all'accettazione della manipolazione genetica del vivente tutto. Ad esempio, nel luglio 2020 il Parlamento europeo approva una deroga temporanea alle due direttive UE relative alla disseminazione e utilizzo di OGM per autorizzare sviluppo e commercializzazione dei vaccini anti-Covid. Dal fronte agricolo a quello medico fino al piatto, è infatti di qualche giorno fa la notizia che la Commissione europea ha autorizzato 7 nuove colture OGM per il consumo animale e umano. Il problema non sono esclusivamente i profitti e i brevetti di Big Pharma, ma le soluzioni che il sistema tecno-industriale sempre impone per risolvere i disastri che esso stesso produce. In Italia ci sono stati finora più di 129.000 morti dichiarati per Covid-19, un numero che deriva anche dall'aver puntato unicamente sui vaccini come cura, lasciando gli ammalati gravi in balia del famigerato protocollo Speranza, vigile attesa, tachipirina e ospedalizzazione, ostacolando e sabotando tutte le possibili forme di prevenzione e cura alternative ed efficaci. I vaccini costituiscono certo un grosso affare per le multinazionali del farmaco, a cui gli stati si sono affidati per venire a capo dell'emergenza, dopo ben inteso aver distrutto negli ultimi decenni la sanità pubblica. Lo smantellamento di strutture, letti e personale della medicina territoriale non rappresenta solo un'autostrada aperta verso la privatizzazione delle cure, ma anche un'accelerazione dell'avvento della telemedicina, cioè la riduzione della cura al controllo da remoto dei nostri corpi tramite sensori e terapie digitali. Con buona pace di chi con leggerezza strilla al complottismo, si tratta di tecnologie già sviluppate, sperimentate e utilizzate. Si sono sperimentate forme di controllo e repressione inedite, domiciliari di massa, limitazione alla libertà di movimento, divieti di manifestare, fino alla sanguinosa mattanza nelle carceri italiane del marzo del 2020 contro i detenuti che rivendicavano libertà e cure. Oggi il Green Pass è un nuovo passo in questa deriva autoritaria, con il tracciamento permanente dei vaccinati e lo stigma dell'apartheid per i non vaccinati. I lavoratori della sanità, prima osannati come eroi, sono diventati, scusate un attimo, allora, i lavoratori della sanità, prima osannati come eroi, sono divenuti potenziali untori da costringere alla vaccinazione, primo campo di prova di un obbligo ricatto che ora viene esteso al personale scolastico universitario e agli studenti universitari, e sotto la pressione di Confindustria e della quasi totalità dei sindacati verrà, in assenza di opposizione, imposto anche agli operai delle fabbriche. Sì, tra l'altro di questi, mi pare di ieri la notizia che anche il personale, diciamo, gli addetti alle pulizie che entrano in strutture come la scuola, che non sono interni dipendenti della scuola, ma che entrano nella scuola per appunto nella scuola o nelle strutture sanitarie, hanno l'obbligo di vaccinarsi o di comunque di avere il Green Pass. Se non ci opponiamo adesso al lasciapassare sanitario e all'obbligo vaccinale, sarà in futuro ancora più difficile lottare e autodifenderci da ogni nocività, in primis quelle biotecnologiche, ma anche da tutte le forme nelle quali si esplica l'autoritarismo, sui posti di lavoro, con la psichiatria, con il carcere, con le frontiere. Disertiamo il Green Pass e l'obbligo vaccinale, boicottiamo le aziende che impongono il Green Pass ai lavoratori, Resistiamo con l'autodeterminazione, forme di tutela autonome e azione diretta. Pratichiamo la solidarietà attiva e il mutuo appoggio nelle strade, sui luoghi di lavoro e in tutti i luoghi di vita. E intanto stiamo ascoltando in sottofondo e anche comunque in precedenza l'intervento questa band di origine brasiliana. Loro sono i Renegades of Punk e questo è il loro album del 2012, Coração Metronomo, e loro sono i Renegades of Punk. Stasera qui a Zradins Magnetics, e immersi in questo mondo impazzito, proviamo a riportare l'attenzione anche sulla galera di Via Spalato a Udine. E come posso dire, riesumando un articolo dalla stampa che qualche tempo fa si è occupata, no, meglio, Udine Today, che ha riportato le dichiarazioni di Corleone, che è il garante per i diritti dei detenuti qui a Udine. E Udine Today pubblicava a metà luglio un articolo, una dichiarazione di Corleone, appunto, di Franco Corleone, e sulla vicenda, sul dramma, sulla tragedia, sul disastro, sulla morte di Ziad, situazione per la quale ci eravamo anche anche noi impegnati, e comunque avevamo provato a dare visibilità a questo dramma, la morte di Ziad, giovane all'interno del carcere di via Spalato a Udine. Nella semplicità e schiettezza pensiamo comunque non inutile leggere questo articolo, per quanto ci possano essere delle perplessità rispetto all'interesse che noi possiamo avere verso la mobilitazione del garante, ma comunque credo che l'articolo possa essere comunque interessante, se non altro alla voce, perché dimenticare questa tragedia, riprendiamola, teniamola in testa attraverso appunto questo articolo comunque davvero interessante. Vado alla lettura dell'articolo che Udine Today ha pubblicato a metà luglio, e con le dichiarazioni, le posizioni e spunti comunque interessanti davvero da Franco Corleone, garante per i diritti dei detenuti a Udine. Muore in carcere a Udine a 22 anni. Il garante per i diritti dei detenuti riapre il caso. Franco Corleone, garante per i diritti dei detenuti, chiede chiarezza sulla morte improvvisa di Ziad Dizan Krish, avvenuta il 15 marzo dell'anno scorso 2020 nel carcere di via Spalato a Udine. L'articolista, che è Anna Dazzan, pone un'entrata al suo articolo. Ne abbiamo scritto l'anno scorso. Ziad Krish aveva solo 22 anni ed è morto nel carcere di Udine in circostanze che, per la famiglia, sono risultate da subito poco chiare. La morte, sopraggiunta lo scorso 15 marzo nel carcere di Udine di via Spalato, non ha avuto nulla a che fare con il coronavirus, visto che era stato effettuato un tampone che ha dato esito negativo. Un'indagine era stata aperta dalla Procura della Repubblica di Udine per fare luce sulle cause. Krish, e qui io mi scuso per il disastro della pronuncia, che probabilmente può essere scorretta. Krish, di origine bulgara, viveva in Italia da quando era bambino con la mamma e un fratello. Negli ultimi anni si era trasferito in Francia e proprio lì, da quanto appreso, il giovane era stato raggiunto da un mandato di arresto europeo nell'agosto del 2019. Già nel febbraio del 2016 il ragazzo era stato arrestato una prima volta a Udine con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Addosso l'allora neomaggiorenne aveva 16 grammi di cocaina divisi in diverse dosi, pronte per lo spaccio, oltre ad alcuni involucri contenenti marijuana. La madre del giovane al tempo ci riferì che aveva parlato con lui il giorno prima del decesso, sabato 14 marzo. Lo stato di salute era buono e a quanto pare stava assumendo del paracetamolo per abbassare una leggera febbre. Krish è stato poi trovato senza vita la mattina di domenica 15 marzo. A riaprire il caso dopo le tante richieste della madre del giovane, in attesa degli esiti dell'autopsia, è stato il nuovo garante dei diritti dei detenuti, Franco Corleone, succeduto a Mauro Palma. Dice Corleone: è uno dei tanti detenuti morti in cella in questo periodo di pandemia, segnato da un peggioramento delle condizioni e anche da forti proteste e da pesanti repressioni. Da ultimo, l'orrendo pestaggio di massa avvenuto nello stesso periodo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, che ha finalmente scosso la società italiana e ha portato la ministra della giustizia Marta Cartabia a parlare di tradimento della Costituzione e di oltraggio alla dignità della persona dei detenuti. Deve spingere tutti a cercare e a realizzare il massimo di trasparenza su quanto succede dietro le mura delle prigioni. Per Corleone, la morte di Ziad appare assai poco limpida e le sue cause poco chiare, tanto da essere oggetto di una inchiesta ancora aperta. Per questo, dice ancora Corleone, ho cercato di approfondire, esaminando le relative perizie. Addentrarsi nei dettagli e negli aspetti e linguaggi tecnici e specialistici è sempre un po' ostico, ma anche necessario per provare a capire ciò che può essere successo. E qui si aprono diversi paragrafi di giornalismo e dichiarazioni di Corleone. Le perizie. L'analisi chimico-tossicologiche sui campioni biologici prelevati dal cadavere ed effettuata dal dottor Antonio Colatutto e consegnata alla Procura della Repubblica del Tribunale di Udine il 10 agosto dello scorso anno, stiamo parlando del 2020, attesta che si trovano tracce solo di metadone e di benzodiazepine, assenti tracce di oppiacei, cannabis, cocaina, anfetamina, ecstasy, buprenorfina ed etanolo. La dottoressa Elena Torresin, sostituto procuratore del Tribunale di Udine, immediatamente aveva posto al professor Carlo Moreschi, il perito nominato, una serie di nuovi quesiti assai puntuali per l'accertamento delle cause del decesso e i mezzi che l'abbiano prodotto e riguardo l'eventuale presenza di lesioni esterne e interne che abbiano messo nesso di casualità con la morte e la genesi delle stesse. La perizia fu depositata il 29 settembre 2020 e la dottoressa Torresin richiese una integrazione specificando alcuni approfondimenti. In particolare chiese se le cause del decesso fossero riconducibili a errori diagnostici e o terapeutici dei sanitari che lo ebbero in cura presso la casa circondariale di Udine, specificando, in caso affermativo, se siano state osservate le linee guida, protocolli o buone prassi applicabili al caso in esame, il titolo e il grado di colpa, domandando infine di conoscere ogni altra circostanza ritenuta necessaria o utile all'accertamento dei fatti. Il 12 febbraio 2021 il professor Moreschi inviò la seconda consulenza. Krish venne trovato dall'infermiere incaricato della distribuzione dei medicinali privo di coscienza alle 7.45. Decedeva alle 8.21 dopo che gli era stato eseguito un massaggio cardiaco e con defibrillatore. La cella numero 13 che lo alloggiava era occupata da 5 detenuti. Il sesto, che avrebbe ceduto dell'hashish a Krish, a Ziad, era uscito dal carcere il 7 marzo. I compagni di detenzione riferiscono che il giorno prima la vittima aveva uno stato febbrile sopra il 37.5 gradi. Un altro detenuto attesta che alle 5 Ziad era vivo perché lo aveva sentito russare. E qui altro paragrafo. Il diario clinico. La visita di primo ingresso gli viene fatta il 5 novembre 2019. Da essa risulta l'autodichiarazione di consumo di diverse sostanze stupefacenti, risalente a 4 mesi prima, non è presente sindrome di astinenza e viene prescritta una terapia con diazepam e Seroquel. Il 26 febbraio 2020, dopo 4 mesi, viene prescritta una terapia di diclofenac per una lombalgia cronica. Il 1 marzo viene citata una osservazione clinica, non si sa da chi sia stata effettuata, e il paziente riferisce uno stato di agitazione con sintomi psicotici d'abuso prolungato da metanfetamine e crack. Sta usando suboxone e tramadolo con beneficio sulla sua condizione di dolore e agitazione. Si prescrive quindi metadone 20 mg, appare anche l'indicazione di somministrazione di Rivotril mattina e pomeriggio, Lirica mattina e pomeriggio, Rivotril Seroquel. Dunque, un pesante cocktail di farmaci, non si capisce da chi e perché prescritti. Sottolinea Corleone. Il 5 marzo viene richiesta visita del servizio per le tossicodipendenze, che è il CERT, per una rivalutazione della terapia. Il 14 marzo, il giorno prima della morte, Ziad viene sottoposto a visita medica in sezione, cioè in cella, con dubbio rispetto della privacy. In quella circostanza avrebbe dichiarato di aver fatto abuso in questi giorni di sostanze stupefacenti, cannabinoidi e altre sostanze. Gli viene consegnata una mascherina chirurgica per prevenzione Covid. E se non fosse che Ziad poi è morto, qui seguirebbe risata. Ma Ziad è morto, una tragedia, un disastro. Proseguiamo nella lettura dell'articolo. Nella autopsia vengono segnalate varie escoriazioni compatibili con atti di autolesionismo. Per il resto non vi sono rilevazioni di patologie. È un giovane sano. Si dice è un giovane sano. E qui si apre un altro paragrafo. I dubbi. Il professor Moreschi adduce come causa della morte una overdose di metadone. In realtà è costretto a ipotizzare l'assunzione contemporanea di altri farmaci e sostanze che possono agire con un effetto additivo nell'aumentare il rischio di morte. Solitamente i decessi dovuti all'assunzione di metadone si verificano per arresto respiratorio, spesso nel contesto di abuso di più sostanze. La relazione che dovrebbe rispondere agli ulteriori quesiti è invece più scarna e burocratica della precedente, ma compare l'indicazione di visite mediche non citate. Il 21 novembre viene ancora modificata la terapia farmacologica con inserimento di Tavor, conferma di Seroquel e Rivotril e sospensione di Valium. Nei giorni seguenti, per una lombalgia di origine misteriosa, viene trattato con farmaci antinfiammatori. Nel febbraio 2020 risulta una visita del medico Sert con prescrizione di Lirica, sospensione di Seroquel, sostituito con Nozinam e aumentato di Rivotril. Non si capisce se è stata prescritta anche la buprenorfina. Con assoluta sicurezza il professor Moreschi attesta che non si ravvisano errori diagnostici e o terapeutici dei sanitari, il decesso non è correlabile alle cure prestate. Una sicurezza che francamente è difficile da condividere, tuona perplesso Corleone. Interrogativi. Dice Corleone: ho allora chiesto consiglio a un amico che è stato per molti anni direttore del Dipartimento Dipendenze della ASL di Napoli e sono emersi molti interrogativi. 1. Come mai non sono stati ricercati i metaboliti degli psicofarmaci somministrati? 2. Perché non è stato somministrato il naloxone, antagonista degli oppioidi per l'overdose, e l'anexate, antidoto per le benzodiazepine? 3. Perché Ziade era in carico al SERT e perché era in terapia con metadone pur non facendo uso di eroina? E perché il metadone non era somministrato in infermeria? 4. Risulta che al 1 marzo Ziad avesse una terapia con Rivotril, benzodiazepina di abuso dei tossicodipendenti, Seroquel, Lirica e metadone. Tali farmaci possono interagire tra loro e potenziare vicendevolmente gli effetti sedatici e depressivi del sistema centrale. 5. Oh, queste sono tutte questioni che pone Franco Corleone. 5. Al test tossicologico delle urine compare solo THC e benzodiazepine, in quello del sangue compare il metadone, tracce. Non può essere a causa della morte la cannabis. Inoltre, Ziad assumeva il metadone, per cui aveva una tolleranza che rende poco probabile l'ipotesi di una overdose legata a questo opioide, visti i dosaggi. 6. Perché non finisce mai sta cosa. 6. La valutazione delle lesioni appare assai superficiale, mentre potrebbe spiegare lo stato di depressione e confusione che viene descritto. E siamo alle ipotesi conclusive di questo articolo apparso a metà luglio su Udine Today, stampa super mainstream, ma che riporta le dichiarazioni, impressioni, quasi conclusioni di Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti qui a Udine, carcere di Via Spalato a Udine. Le ipotesi conclusive. In definitiva, dice Franco Corleone, mi pare che l'ipotesi che il cocktail di farmaci prescritti abbia causato effetti deleteri non possa essere scartata. Così pure appare un'evidente confusione e contraddittorietà nelle prescrizioni scritte, in quelli di fatto e nelle visite mediche effettuate, soprattutto di fronte a un quadro clinico precario come quello che emergeva dalla visita del 14 marzo. Appare una scelta discutibile lasciare il paziente in cella e non provvedere piuttosto a un ricovero o a una sistemazione più consona con una previsione di visita notturna. Continua Corleone. Una sola conclusione mi sento al momento di fare. Il diritto alla vita e alla salute sono fondamentali e vanno tutelati anche per i detenuti, il cui corpo è nelle mani dello Stato, con la massima cura e attenzione. Chi lavora nel carcere deve essere messo nelle condizioni di farlo adeguatamente e occorre valutare la presenza di un medico di notte. La perizia, con un pizzico di cinismo tautologico, ci dice che Ziad è morto perché è morto, però non basta. Può darsi che il giovane avesse invece voglia di vivere. Ah, ora che è deceduto, aiuto. Ora che è deceduto, gli si deve almeno chiarezza e trasparenza, rigore negli accertamenti e nelle conclusioni. Perciò, conclude Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti nel carcere di Udine, perciò ho fiducia che la dottoressa Elena Toresin deciderà con sagacia e umanità. E lasciamo in sottofondo questa band scozzese, loro sono i plurinoti Oi Polloi, esistenti dai primissimi anni 80, addirittura dal 1981, e comunque questi sono tutti brani estrapolati dal loro album Pigs for Slaughter, che è uscito nel 2006 e che anche abbiamo ascoltato in precedenza durante l'intervento. Ora siamo praticamente giunti al termine della trasmissione Kezzardis Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane a Udine dalle ore 20 alle 21:30. Prima di salutarci in modo definitivo vi volevo ricordare i nostri contatti, ma anche e soprattutto chi volesse riascoltare questa trasmissione, comunque anche quelle delle scorse settimane, può andare sul blog che si chiama zardismagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardismagneticsradio.noblogs.org. Inoltre, se ci volete contattare, potete scriverci direttamente tramite mail, questa ovviamente ve la leggo, liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org. e inoltre, se ci volete scrivere alla, diciamo, vecchia maniera, ovvero in forma cartacea, potete scriverci direttamente alla casella postale, che è casella postale 129, Associazione Senza Sbarre, Trieste Centro, 34121 Trieste. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, 34121 Trieste. Bene, vi lascio ancora con un ultimo brano dei Oi Polloi, quindi al prossimo giovedì e ciao a tutti.